2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 2 ottobre 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024 e radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Vi consiglio sempre di abbonarvi gratuitamente a questo servizio, che vi dà la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. File che sarà disponibile al massimo entro un'ora e mezza dalla fine della nostra trasmissione, quindi il sabato entro le 18.30. Alcune notizie della settimana, poi parleremo del mercato dei tablet, oggi parleremo anche di sicurezza informatica, altri ingredienti sono inseriti nella nostra puntata. Partiamo però da una notizia che riguarda Nintendo, l'abbiamo già anticipata la settimana scorsa, che ha presentato la nuova DS chiamata 3DS, quindi il nome è stato confermato, una nuova console autostereoscopica che quindi è in grado di riprodurre immagini in tre dimensioni ma senza l'uso degli occhialini. Ma come abbiamo detto sabato scorso, tutti i prodotti di questo tipo prevedono che l'utente rimanga fermo in un punto d'osservazione rispetto al display, cosa abbastanza facile di fronte ad una console da gioco, ma piuttosto difficile stando seduti su un divano davanti ad una TV da 42, 50 o più pollici. E questa è una delle ragioni che suggeriscono agli esperti quanto sia difficile che si affermino, almeno in questo momento, TV da salotto autostereoscopiche, quindi che non abbiano bisogno degli occhialini. Ma di questo abbiamo parlato ampiamente nella scorsa puntata, che vi consiglio di riascoltare se ve la siete persa, una puntata che fa il punto della situazione, un po' di chiarezza sul mondo, sul mercato e sulla tecnologia 3D. Tornando alla 3DS annunciata da Nintendo, l'azienda di Kyoto ha detto che sarà nei negozi in Giappone a partire dal 26 febbraio 2011, naturalmente, mentre da marzo verrà venduta negli altri paesi ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi sui 200 euro. Nella lunga lista di cause e controcause dell'industria della tecnologia aggiungiamo la Microsoft, che ha denunciato Motorola accusandola di avere violato alcuni brevetti sugli smartphone Android, in particolare tecnologie relative alla sincronizzazione delle email, i calendari e la gestione dei contatti. Negli ultimi anni, direi negli ultimi mesi, c'è stato un aumento considerevole di cause e controcause, in modo particolare nel settore della mobilità. Questa settimana registriamo anche l'arrivo del nuovo amministratore delegato di Hewlett Packard, la HP, che è Leo Apotheker, un veterano dell'industria dei computer, ex numero uno di SAP. Buon lavoro, perché anche da HP sono attesi annunci di nuovi prodotti, come ad esempio il futuro tablet. Questa settimana di tablet ha invece parlato RIM, il produttore del BlackBerry, che ha presentato il Playbook. Quali sono le caratteristiche e quando arriverà sul mercato? Ne abbiamo parlato con Luca Figini, che segue questo nuovo segmento che è stato inaugurato dall'arrivo dell'iPad della Apple. Il Playbook, questo è il nome del tablet di BlackBerry, arriverà probabilmente nel primo trimestre 2011, ma diciamo, allargando le aspettative, entro il primo semestre 2011. Quindi è un annuncio che è stato fatto con specifiche su quali saranno le caratteristiche tecniche eccetera, ma in realtà per vederlo poi, per provarlo, per toccarlo con mano, bisognerà aspettare ancora almeno un 6 mesi. Quindi siamo ancora nella, diciamo, sfera degli annunci, perché come dicevamo molti sono stati gli annunci dopo l'arrivo dell'iPad. In ogni caso, diciamo due cose di questo prodotto, perché c'è una caratteristica da sottolineare: un nuovo sistema operativo, e sui sistemi operativi poi diremo qualche cosa di più, perché anche in questo mercato i sistemi operativi saranno importanti e fondamentali. Due caratteristiche sul Playbook. Allora, RIM per il suo tablet ha puntato tutto su una caratterizzazione per questo dispositivo, cioè è un device puramente business. Per realizzarlo però non ha impiegato il solito BlackBerry OS che si trova sugli smartphone, ma si è affidata a QNX, che è un'azienda che sviluppa un sistema operativo che si chiama appunto QNX, che ha acquistato nel corso dell'anno scorso, 2009-2010, ha completato l'acquisto di QNX. di fatto non cambia quasi nulla, nel senso che a parte quello, la parte architetturale di questo sistema operativo, poi a livello utente non cambia molto. Quindi è un tablet touch come l'iPad, grosso modo. È un tablet touch, ha un display da 7 pollici, capacitivo, un processore dual core da 1 GHz, e questa è una principale novità rispetto ai tablet attuali, nel senso che tutti gli altri tablet hanno un processore di tipo tradizionale, questo qui è il primo a avere due core di elaborazione. Quindi è molto potente. È molto potente anche perché deve supportare la piattaforma di distribuzione email, di push email di BlackBerry, quindi pur essendo un prodotto diverso a livello tecnologico deve essere uguale a livello di funzione rispetto a quello che sono i smartphone attuali, quindi garantire tutto il supporto alla tecnologia proprietaria di D-RIM. Prima di questa chiacchierata io ti ho chiesto di preparare una lista degli annunci, allora ho visto una lista che arriva addirittura a 33 tablet annunciati per i prossimi mesi. Allora, non staremo qui a fare una lista di 33 prodotti, però sicuramente vogliamo citare i principali. Abbiamo già parlato a 2024 di Samsung, che tra poco uscirà anche in Italia sul mercato, quindi l'uscita è imminente del nuovo tablet. Però vorrei partire da HP, perché HP lo scorso anno ha parlato molto di un tablet in arrivo imminente. In realtà non se ne parla più. HP è stato il primo partner ufficiale di Microsoft quando Microsoft ha presentato il progetto Slate. La Slate di HP doveva essere un tablet basato su Windows con certe caratteristiche. In realtà poi nel corso dell'anno per HP i piani sono cambiati, nel senso che nel frattempo ha acquisito Palm e quindi ha acquisito WebOS, che è il sistema operativo di Palm, e quindi probabilmente sta rivedendo un po' il concetto di tablet puntando più su WebOS che su Windows e su Microsoft. HP in realtà è però una sorta di metafora di quello che sta succedendo nel mercato dei tablet, nel senso che il concetto di tablet spariglia un po' le carte, si rimischia un po' tutto, per cui tutti hanno delle opportunità in un mercato che si sta formando, e i tradizionali produttori di PC probabilmente sono quelli un po' più restii a capire come affrontare il mercato, mentre che in realtà questo tipo di dispositivo basato su un display interattivo di tipo sensibile al tocco eccetera facilita molto la vita a chi in realtà produce già smartphone, touchscreen, e quindi sa già come affrontare la produzione dell'interfaccia e la realizzazione o sviluppo della tecnologia hardware. Quindi potremmo dire che il tablet è più un telefonino che si allarga, cioè uno smartphone che diventa più grande, piuttosto che un notebook o un netbook o comunque un computer che diventa più piccolo. È sicuramente più semplice allargare un telefonino che rendere diverso touchscreen e più compatto un notebook, questo sicuramente, per cui è più facile per esempio che Samsung dal Galaxy S passi al Galaxy Tab o che dall'iPhone si passi all'iPad rispetto a un netbook da 15 pollici che diventa da 9 pollici touchscreen senza tastiera. Tra poco parleremo degli altri annunci fatti per questo mercato, quindi gli altri tablet che arriveranno. Abbiamo citato Samsung, ne abbiamo parlato anche recentemente in occasione dell'IFA di Berlino. Ci sono molte aspettative da parte dell'azienda coreana su questo tablet che arriverà tra pochi giorni sul mercato italiano. Ci fermiamo per qualche secondo, questo è 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci risentiamo tra un minuto. Stiamo parlando del mercato dei tablet dopo l'annuncio fatto in settimana del playbook della RIM, che però, come avete sentito, arriverà il prossimo anno. Invece abbiamo detto e citato il Galaxy Tab di Samsung che è in arrivo. Quali sono gli altri prodotti? Perché, come abbiamo detto, sono numerosi gli annunci. Luca Figini. I principali sono stati presentati all'IFA o subito dopo. Il primo e più interessante è il Toshiba Folio, che è un tablet con un display da 10 pollici in formato 16 noni, costerà intorno ai 600 euro e deriva dall'hardware che Toshiba aveva già impiegato per il suo netbook basato su Android, anche Folio basato su Android 2.2, ed è un tablet con tecnologia Nvidia Tegra che quindi è perfettamente adeguata per riprodurre contenuti in HD e contenuti video di una certa consistenza. Altri sono il Dell Streak, sempre basato su Android, con display da 5 pollici, presentato recentemente, arriverà probabilmente nel 2011, però è un dispositivo anche in questo caso metà strada fra uno smartphone e un tablet. Ci sono gli Arcos con gli internet tablet, che sono tablet molto multimediali, con display che vanno da 2,8 pollici a 10 pollici, tutti basati su Android. C'è la Lessi Tab, che è è un tablet italiano, incredibile ma vero, chiaramente di Alessi, ed è un tablet destinato alla casa, quindi essere messo in cucina, visto che ha le ricette cucchiaio d'argento, e anche per vedere la TV ha un display da 10 pollici su cui viene visualizzata la TV in digitale terrestre grazie al sintonizzatore. Ricordiamo che Alessi è un'azienda che è nota soprattutto per il design, quindi probabilmente sarà un prodotto molto bello da prendere in mano. Questo forse vorrà anche dire che vedremo dei tablet specializzati. Questo è un tablet per la casa, per la cucina, probabilmente vedremo altre cose. Altri marchi, altri brand? Altri brand, c'è Cisco, Colchus, Osius, che è destinato però a un'esigenza più enterprise, visto che ha tutte le loro tecnologie di produzione, telepresenza e di collaborazione. Lenovo con l'iPad, questo è innovativo, è incredibile. È un tablet con un display di 10 pollici che viene inserito in una specie di semiscocca e lo fa diventare un portatile. Quindi è veramente un ibrido tra un mondo e l'altro. C'è quello di MSI, che è l'unico per ora basato su Windows 7, perché mentre tutti gli altri si basano su Android, MSI ha deciso di fare un tablet basato su Windows 7 Premium Edition, con un display da 10 pollici, l'unico altro tablet con Windows 7 è il ViewSonic, il ViewPad 100, che però in realtà c'era un trucco, nel senso che è un dual boot, quindi puoi scegliere se far partire Windows 7 o Android 1.6. Bisognerebbe fare un'analisi e vedere cosa faranno gli utenti. Senti, tutti questi prodotti arriveranno tra poco o, perché tu hai citato anche il 2011? Molti di questi prodotti stanno per arrivare a scaffale. Sono già sui siti, c'è già un prezzo, come nel caso del Galaxy Tab eccetera, o del Toshiba, sono già previsti per i prossimi mesi. Nei prossimi mesi arriveranno però anche quelli di LG, che si presume entro la fine del 2010, quello di Motorola, inizio 2011. Insomma, tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 arriveranno tutti o saranno presentati i rivali di quello di Apple. A questo punto uno potrebbe domandarsi, ma Nokia ha programmi, progetti? Adesso è vero che Nokia sta vivendo un momento di passaggio perché è stato nominato il nuovo amministratore delegato, quindi insomma attendiamo anche di vedere quale sarà la nuova strategia, ma esistono progetti, programmi oppure no? Nokia è incredibile, è quella che di fatto ha inventato l'internet tablet, quindi il tablet per navigare che si tocca con le dita, in realtà è ferma a questo concetto all'N900, al suo prodotto. È l'unica che in questo momento, in questa fase, non ha ancora mostrato nulla che possa essere in linea con quelle che sono le attuali tendenze tecnologiche, quindi un display più ampio, più sottile come design, eccetera. Un'ultima domanda, stiamo parlando di un mercato importante, quindi un grosso mercato o un mercato di nicchia? È un mercato che diventerà importante. In questo momento è un mercato di nicchia, nel senso che è appena iniziato e quindi ha bisogno di qualche mese per affermarsi, nonostante l'esplosione dell'iPad. Sicuramente il 2011 è l'anno in cui diventerà un mercato importante, diventerà un mercato veramente di distribuzione di massa, con numeri interessanti. Potrebbe addirittura rubare il 20% del mercato dei netbook. Qualche analista sostiene che potrebbe addirittura arrivare a produrre circa 50 milioni di pezzi l'anno, quindi muovere fatturati di miliardi di dollari. Sicuramente è un mercato che ha delle enormi potenzialità, perché ridisegna completamente il modo di interagire col computer e quindi fa invecchiare in un sol colpo mouse e tastiera, e già questo lo rende interessante perché dà una svecchiata a quello che siamo abituati a vedere in giro. Questo è 2024, adesso cambiamo argomento, parliamo di sicurezza informatica. Quasi tutti i giorni gli esperti e le aziende che si occupano di security intercettano un nuovo virus con relativo e fantasioso nome di battaglia. Se dovessimo riportare tutte le analisi che vengono effettuate settimana dopo settimana, insomma, dedicheremo tutta la trasmissione ai nuovi virus. Però questa settimana si è cominciato a parlare di Stuxnet, che è in giro da qualche tempo, un programma che merita di essere citato e ricordato per gli attacchi globali che sta provocando per dimensioni e soprattutto per le località colpite. Stuxnet ha toccato la Cina da qualche giorno. La Cina spesso è accusata ed è spesso l'origine di attacchi informatici. In questo caso sono segnalati almeno 6 milioni di computer infettati. Il virus avrebbe anche attaccato i computer di un sito nucleare iraniano e secondo alcuni esperti la complessità di Stuxnet è così elevata che dietro non ci può essere una semplice organizzazione criminale, ma c'è chi ipotizza ad esempio i leggendari servizi segreti israeliani che hanno una divisione dedicata alla guerra digitale. Una guerra nascosta, in atto da mesi in tutto il mondo, ne abbiamo anche già parlato, 2024, e che potrebbe naturalmente minacciare anche l'Europa, al punto che la Commissione di Bruxelles ha presentato proprio questa settimana una proposta di legge in materia che rinnoverebbe tutte le leggi nazionali dei 27 paesi europei. Di sicurezza informatica abbiamo parlato con uno dei maggiori esperti del mondo, ovvero Eugene Kaspersky, che nel 1997 ha fondato i Kaspersky Labs, che sono produttori di soluzioni di sicurezza informatica e di antivirus, e Eugene Kaspersky è oggi a capo di un'azienda da 600 dipendenti. I think it's a bit different story year by year because credo che la situazione della sicurezza su internet cambi con il passare del tempo. Oramai non si tratta solo di virus contro tecnologie, si tratta piuttosto di persone contro altre persone. I cybercriminali, quelli che mettono a punto i software responsabili degli attacchi informatici, da una parte, e le compagnie che studiano gli antivirus e i sistemi di sicurezza dall'altra. 10-15 years back there were no cyber criminals, they were just hooligans, kids. 10-15 anni fa non esistevano i criminali informatici. C'erano solo dei teppisti, dei ragazzini che si divertivano a fare gli hacker per mettersi alla prova. Poi sono arrivati i singoli professionisti della truffa informatica che agivano per scopi criminali, ad esempio per rubare denaro dai conti online. Infine, hanno fatto la loro comparsa i gruppi di hacker, delle vere e proprie organizzazioni criminali che comunicano e collaborano tra di loro per perseguire i loro scopi malevoli. What's next? I'm afraid that we'll see there maybe worse in the internet. Che cosa succederà in futuro? Beh, temo che la situazione peggiorerà ulteriormente e forse vedremo interi paesi contro altri paesi. Al giorno d'oggi le infrastrutture informatiche sono molto complesse e le nostre vite dipendono per molti aspetti da esse. Ecco perché è sufficiente colpire i canali informatici per danneggiare o abbattere un'intera nazione o addirittura l'economia mondiale. Internet attacks. E secondo lei i governi sono sufficientemente consapevoli di quello che sta accadendo in rete? It seems that the major governments and in Europe as well, they are aware of the situation and they at least research. Sembra che i maggiori governi, compresi quelli europei, ne siano consapevoli. Sicuramente stanno studiando la situazione. Negli Stati Uniti so che è in atto un progetto concreto che ha come obiettivo la sicurezza della rete. Temo però che i governi non stiano adottando la strategia migliore. I paesi, infatti, stanno studiando delle soluzioni nazionali, ma internet non ha confini. E per garantire un'adeguata sicurezza della rete a livello mondiale, ci vuole una soluzione globale che nasca da un accordo tra le varie nazioni. It must be agreement between countries. E questo sicuramente è e sarà un problema, ed è per questo anche che l'Unione Europea sta cercando di fare qualcosa per mettere assieme almeno i paesi europei. Visto che l'attività criminale sembra funzionare, può secondo lei significare che la tecnologia non è ancora sufficientemente sofisticata per fermare i criminali? O c'è un problema di comportamento degli utenti o che altro tipo di problema? Per molte ragioni. Questo è un business che richiede solamente un computer, una connessione alla rete e le conoscenze informatiche necessarie. Inoltre è molto difficile arrestare un cybercriminale se questo è abbastanza bravo da non lasciare tracce della sua attività e da rendersi anonimo al 100%. Inoltre i software spesso non vengono realizzati con un livello di sicurezza massimo, perché questo renderebbe più difficile svilupparli e sarebbero meno competitivi. Quindi sono piuttosto facili da violare. The internet design is insecure because internet was all these computer networks they were built and actually these projects were paid by American military. La stessa rete è nata come uno strumento che doveva essere utilizzato solo dai militari ed è per questo che fin da subito non sono stati previsti dei sistemi di sicurezza contro eventuali intrusi. La rete era insomma destinata a un gruppo ristretto di utenti e non c'era bisogno di identificarli tutti. Ecco, questo è il più grande ostacolo tecnologico. Internet è anonima. Per guidare un'auto ci vuole la patente, perché l'auto è pericolosa. Per guidare un computer non serve alcuna licenza. ma è pericoloso allo stesso modo. Credo che Internet debba essere ripensata in questi termini. Non dico che tutti debbano essere obbligatoriamente identificati per navigare, ma nel caso uno voglia proteggere il proprio business, le proprie informazioni, eccetera, potrebbe convenirgli spostarsi in questa zona di sicurezza, con maggiori controlli e meno anonimato. Expensive information. I think they will change your mind and they will switch to secure. Zone. Ricorderete che abbiamo parlato di neutralità della rete, del dibattito che c'è in atto soprattutto negli Stati Uniti. Questo ultimo aspetto che ha toccato Eugene Kaspersky, cioè di una rete, di una particolare rete protetta, meno anonima di quella normale, diciamo così, potrebbe essere sicuramente una cartuccia che potrebbero spendere in futuro i sostenitori di una rete un po' meno neutrale. Ma non apriamo un altro dibattito, concludiamo questa chiacchierata con Eugene Kaspersky e ci facciamo dare alcuni consigli per proteggere i nostri dati. There have to be a combination of two things. First of all, good software, good protection. Beh, è necessaria una combinazione di due elementi. Sicuramente ci vuole un buon software antivirus, ma la regola generale è quella di prestare attenzione. Non vi fidate di chiunque vi mandi un'email. Non cliccate alla leggera su ogni link. Insomma, Internet è come una città pericolosa. Per sopravvivere è necessaria una protezione e mantenere alta l'attenzione, non fidandosi di chiunque si incontri per strada. You have not to trust everyone on the street. That's it. Beh, naturalmente ricordate anche che Eugene Kaspersky è sicuramente un genio dell'informatica, della security, ma è anche un produttore, un venditore di antivirus, ma buona parte insomma delle attenzioni che ci ha suggerito sono da prendere e da tenere in considerazione. Questo è 2024, siete su Radio 24, ci fermiamo per qualche minuto, riprendiamo tra poco. Questa è la seconda parte di 2024, vi ricordo che il nostro programma è disponibile anche in versione podcast, il file MP3 della nostra trasmissione sarà pubblicato attraverso il sistema podcast di Radio 24 entro al massimo un'ora e mezza dalla fine della trasmissione, quindi al massimo entro le 18:30, per questo ringraziamo oggi Valeria Bernardi che si occupa della parte tecnica. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, tra poco parleremo di Fastweb che ha lanciato per i nuovi clienti e lancerà la prossima settimana per i vecchi clienti l'offerta a 100 megabit. Adesso parliamo invece del mercato cosiddetto digital consumer che vale parecchi miliardi in Italia. Il dato è del secondo osservatorio SMAU della School of Management del Politecnico di Milano, presentato in occasione del lancio di SMAU che aprirà a Milano il 20 ottobre prossimo e seguiremo anche con appuntamenti speciali su Radio 24. Abbiamo parlato di questo osservatorio dei dati e del settore digital consumer con Andrea Rangone, che è responsabile degli osservatori del Politecnico di Milano. Sono tre componenti principali. La prima è costituita dall'utilizzo delle tecnologie digitali per vendere prodotti e servizi non digitali, come sono i viaggi, elettronica, biglietti, cose di questo tipo. La seconda componente invece è la vendita di prodotti e servizi digitali, ad esempio contenuti media, ad esempio giochi digitali e servizi di questo tipo. La terza componente è rappresentata invece proprio dalla pubblicità che si fa sulle piattaforme digitali. Bene, tutte queste tre componenti nel 2010 cubano complessivamente per oltre 11 miliardi di euro, ne abbiamo stimato 11,5 miliardi di euro, che è sicuramente una cifra consistente. Esatto, quando parliamo di miliardi di euro parliamo appunto di cifre che hanno un peso rilevante nell'economia, ma per avere un'idea, stiamo parlando di un mercato che ha dimensioni grandi quanto e soprattutto ha che tipo di valore ha all'interno dell'economia italiana? Sì, giusto per dare appunto un'idea concreta del peso nell'economia, ecco, 11,5 miliardi di euro è più o meno equivalente al totale mercato della moda femminile in Italia, che è sicuramente un comparto insomma è rilevante, pesante, importante per la nostra economia. Ecco. Quindi questo ci dice che attorno a questi mercati che fanno parte di quella che voi chiamate digital consumer ci sono oramai aziende, posti di lavoro e quindi numeri molto importanti. Tra l'altro questo è un mercato, ed è un'altra notizia positiva, che in un contesto che ancora non è uscito dalla crisi cresce a due cifre. Questo è proprio il punto. Di per se stesso 11,5 miliardi di euro rappresenta un valore in assoluto importante, ma la cosa ancora più interessante è che è un mercato in fortissima crescita. Lo è stato nel 2010, perché abbiamo stimato una crescita di circa il 13%, a fronte, come sappiamo tutti, anche a causa dello scenario economico, di tanti altri settori che non sono cresciuti o sono cresciuti a cifre molto inferiori, ma soprattutto ci aspettiamo nei prossimi anni una crescita molto forte. Quindi questi 11,5 miliardi sono destinati nei prossimi anni a salire considerevolmente, con tutti gli impatti positivi sull'economia e sull'occupazione, oltre che sull'innovazione di questa componente, diciamo così, innovativa, insomma, dell'economia italiana. Adesso cambiamo argomento, parliamo di Fastweb, che da poche settimane ha lanciato per i nuovi clienti un'offerta che eleva a 100 megabit, purtroppo solo in download, poi spiegheremo anche il perché, la velocità dei collegamenti in fibra ottica, oggi a 10 megabit. L'offerta è attiva per i vecchi clienti dal prossimo 6 ottobre. Naturalmente la novità riguarda una parte minoritaria dell'Italia, quella raggiunta dalla fibra ottica dell'operatore, che oggi è di proprietà di Swisscom. Abbiamo parlato tantissime volte dei problemi di digital divide del paese, sicuramente questo è un tema su cui torneremo, ma oggi ci concentriamo su questa offerta, della quale abbiamo parlato con Mario Mella, che è Chief Technology Officer, quindi è il capo delle tecnologie di Fastweb. È una nicchia fortunata, ma non è poi così limitata. Stiamo parlando del 10% della popolazione, quindi 2 milioni di famiglie possono dal mese di settembre avere a casa una connessione a 100 mega. Questo in termini, diciamo, pratici per l'utente finale, perché ricordiamo questa è un'offerta che esiste anche per le aziende ma con caratteristiche diverse, per l'utente finale che sta in casa o magari in un piccolo ufficio, che cosa significa? Ma significa avere una velocità di trasmissione che è quasi 20 volte più potente della velocità media di navigazione oggi disponibile sulle connessioni broadband in Italia. Un tempo, quando nacque l'offerta in fibra ottica anche in Italia, si diceva che una delle caratteristiche della fibra era la possibilità di avere velocità simmetriche. Di fatto la vostra fibra è 10 megabit in upload, 10 megabit in download. In questo caso invece voi date una grande velocità in download, ma limitate a 10 megabit. Diciamo che nell'upload rimanete con la vecchia offerta. Per quale motivo? Dunque, in questo momento l'offerta 100 megabit simmetrica c'è e la teniamo confinata al mondo delle piccole e medie imprese. Per quanto riguarda il residenziale, oggi noi riteniamo che un canale di ritorno a 10 megabit sia già una banda veramente interessante per l'utilizzo che ne deve fare un normale fruitore residenziale, tenendo conto che è circa 20 volte più potente del normale upload che si può fare con una linea DSL. Vero è che se un domani noi dovessimo vedere che c'è un'esigenza di potenziare il canale di upstream, perché i cosiddetti user generated content inizieranno a prendere sopravvento, sarà un qualcosa che l'infrastruttura potrà reggere. Una delle cose che si citano spesso quando si parla di velocità così elevate, comunque della fibra che diventa sempre più simile ad una rete locale, sono tutti i servizi cosiddetti di cloud computing. Ma in generale voi a che tipo di servizi pensate proponendo una offerta di questo genere? Ma è evidente che si aprono scenari sicuramente nuovi con un'offerta di questo genere. È importante ricordarci che servizi come YouTube o social network in generale, se non ci fossero state le connessioni DSL, non sarebbero mai nati. Così come servizi basati su iPhone o comunque su smartphone in generale non avrebbero potuto nascere né funzionare se non fossero state realizzate prima delle reti 3G. Col 100 mega il discorso è molto simile. È evidente che sarà di fortissimo impulso allo sviluppo di nuove applicazioni che siano in grado di sfruttare efficacemente questi 100 mega. È altrettanto vero che in uno scenario di cloud, ovvero della capacità di demandare alla rete tutta una serie di servizi che prima i fruitori finali, le piccole aziende, i clienti dovevano tenersi in casa, una simile capacità di banda lo permetterà di fare. Il nostro archivio fotografico, il nostro archivio di film o quant'altro sarà molto più semplice tenerlo in rete anziché crearci degli archivi in locale che sono anche assai meno affidabili, e questo lo si potrà fare con delle connessioni real time possibili proprio grazie a una simile capacità trasmissiva. Senta, Milano è sicuramente uno dei territori a più alta concentrazione di fibra, ma in questo caso, visto che comunque voi per quanto riguarda la fibra ottica siete l'operatore principale in Italia, almeno per il mercato consumer, quali sono le città coinvolte e soprattutto quali pesi hanno queste città? Ma Milano sicuramente ha un peso preponderante, però sui 2 milioni di famiglie raggiungibili con l'infrastruttura di Fastweb a Milano, Milano pesa per circa 800.000 famiglie raggiungibili. Le altre città che oggi possono ricevere questo servizio sono città come Bologna, come Genova, Torino, Roma, Bari e Napoli. Ci tengo a dire che è la più grande realizzazione di una rete di fatto di nuova generazione a 100 mega oggi in Europa. E faccio un'ultima domanda sul mondo delle ADSL, perché questo è un altro mondo molto importante. Un giudizio su, innanzitutto qualità generale del panorama italiano, visto che per forza dovete transitare su una rete che non è vostra, comunque almeno nell'ultimo pezzo dovete utilizzare rame di Telecom Italia. Telecom ha annunciato un upgrade di alcune centrali, ci sono anche dei problemi, diciamo, di costo, perché l'unbundling costerà di più, c'è stato un aumento delle tariffe, insomma, cosa siete soddisfatti, o visto che gli operatori alternativi, chiamiamoli così, sono spesso critici nei confronti di Telecom Italia? Ma la rete rame in Italia sta iniziando a evidenziare dei limiti di performance e di funzionamento preoccupanti. Il motivo per cui noi riteniamo che è oggi il momento di parlare di NGN è perché non vogliamo arrivare al collasso della rete rame quando ancora il paese è sprovvisto di un'adeguata infrastruttura in fibra ottica che sia in grado di rimpiazzarla. Oggi quello che noi vediamo è un deterioramento progressivo delle performance di questa rete, dovute sia a vecchiaia della rete rame, ma anche dovuto al fatto che il doppino telefonico, proprio per caratteristiche fisiche, maggiore il numero di collegamenti broadband all'interno dello stesso cavo, peggiori sono le performance. Quindi a fronte anche di un aumento ingiustificato del canone di unbundling, perché il servizio che noi otteniamo, la guastabilità che noi riscontriamo sui collegamenti continua a peggiorare progressivamente, non ci fa essere assolutamente ottimisti sul funzionamento della rete rame per ancora molti anni. E questa era la voce di Mario Mella, Chief Technology Officer di Fastweb. Parleremo sicuramente, l'abbiamo segnato nel nostro calendario mobile, in una delle prossime puntate, della situazione generale dell'offerta internet in Italia, perché abbiamo detto che il 10% della popolazione è raggiunto da questi servizi che possono andare addirittura a 100 megabit. C'è qualche altro piccolo operatore che offre soluzioni in fibra, soprattutto per le aziende in altre zone del paese. La gran parte dei collegamenti sono offerti in ADSL, ma qual è lo stato effettivo della diffusione, dell'utilizzo, soprattutto della qualità, che spesso viene anche giustamente criticata? E poi ci sono alternative che pochi conoscono, come ad esempio Hyperlan. Ci sono tanti operatori che stanno fornendo questi servizi nelle zone non raggiunte dalla DSL. Poi naturalmente ci sono anche le soluzioni che sfruttano la rete di telefonia mobile. Torneremo su questo tema, del resto questo è uno dei temi di cui ci siamo occupati molto spesso anche lo scorso anno, negli scorsi mesi. Siete all'ascolto di 2024, adesso per noi c'è una breve pausa, ci risentiamo tra un minuto. Abbiamo parlato della nuova offerta presentata da Fastweb, che aumenta la velocità della fibra ottica a 100 megabit, naturalmente solo per i clienti che ne fanno richieste e sottoscrivono un nuovo abbonamento, perché questo è un upgrade non gratuito ma a pagamento. Il canone normale è di 15 euro mensili in più rispetto all'abbonamento mensile base, ma in base ad alcune offerte che sono sul sito in questo momento è anche di soli 10 euro di aumento rispetto al canone base. Ma poi sul sito internet di Fastweb trovate tutte le informazioni. È giusto che questo sia un collegamento, un upgrade, un aumento della potenzialità a pagamento, e tra l'altro questo è anche un collegamento abbastanza esclusivo se guardiamo il panorama internet in Italia. Il vero problema è il costo della DSL base, che per una famiglia media italiana è troppo costosa, e certo finora l'authority, il governo e tutti i soggetti coinvolti non hanno certo aumentato, non hanno certo contribuito alla diminuzione del prezzo, anzi ultimamente con questi ritocchi all'unbundling il prezzo probabilmente aumenterà, seppur di poco, ma aumenterà. Invece dovrebbe esserci l'opportunità di fare pagare i collegamenti ad internet meno rispetto alle tariffe attuali, visto quello che diciamo spesso e che dicono molti dei nostri ospiti, che internet è diventata una necessità per buona parte della popolazione. Adesso cambiamo argomento, parliamo di un tema che può sembrare strano, particolare, ma ha a che fare con i temi che tocchiamo. Parliamo di diffamazione. Naturalmente non ne parliamo spesso perché ci occupiamo di altro, ma oggi c'è una notizia che ci dà lo spunto per parlare di questo tema, perché la Cassazione è intervenuta dicendo che un direttore di un giornale web o di un blog, comunque di un sito internet, non risponde per diffamazione a mezzo stampa. Ne parliamo con Alessandro Galimberti della redazione di Norme e Tributi del Sole 24 Ore. Bentornato a 2024. Grazie a voi. Beh, diciamo subito, Alessandro, che la diffamazione, anche se molti non se ne accorgono, non lo sanno, è un reato che è, potremmo dire, esploso assieme all'esplosione di internet. Sì, perché quando si fanno queste sintesi poi giornalistiche anche di sentenze complesse come quella di cui parleremo oggi, si pensa che tutto ciò che avviene su internet, cioè si instilla il dubbio che tutto quello che viene fatto su internet non è perseguibile, non ci sono i mezzi per perseguirlo. Sì. Non è così. Noi oggi dovremo parlare di diffamazione a mezzo stampa, che è una fattispecie particolare della diffamazione. Della diffamazione aggravata. Quello che avviene su internet, oggi è vero quello che dici tu, che la possibilità del mezzo, la libertà o la presunta libertà del mezzo ha fatto in modo che aumentino esponenzialmente i fatti di diffamazione. La diffamazione è perseguibile con le leggi. Esatto, se uno guarda alcuni forum o i commenti anche su alcuni siti molto noti, sono, potremmo dire, pieni di potenziali, cioè di diffamazioni, ma potenzialmente perseguibili, insomma. Certo. La Cassazione, dicevamo, interviene sulla diffamazione a mezzo stampa, perché qui sta un po' il distinguo che viene fatto. Le leggi attuali, dice la Cassazione, se ho capito bene, non permettono di intervenire su un sito web così come si interviene su un giornale di carta. Sì, esatto. La Cassazione, a mio giudizio, fa un ragionamento molto corretto sul diritto esistente, in particolare sull'articolo 57 del Codice Penale, che prevede la responsabilità omissiva per colpa del direttore di stampa periodica che non impedisca che attraverso il suo giornale vengano commesse una diffamazione. Cioè, non si accorga e quindi non impedisca. Il ragionamento che fa la Corte di Cassazione è ineccepibile. Quella legge è prevista per la diffamazione a mezzo stampa. Nel ragionamento della motivazione dice: che cos'è la stampa? La stampa è un procedimento chimico attraverso cui viene impresso un giornale, viene messo a disposizione del pubblico con forme particolari che sono l'esposizione in edicola, l'acquisto, l'abbonamento e altro. Tutto questo è raffrontabile, rapportabile a ciò che è l'informazione virtuale? No. Nel diritto penale, tra l'altro, non può essere fatta un'applicazione analogica. Possono essere perseguiti e puniti solo fatti che sono tassativamente previsti dalla legge. La Cassazione dice: questo non è tassativamente previsto, il web è una cosa diversa rispetto alla stampa, quindi questa norma molto particolare della responsabilità del direttore di vigilanza su quello che viene pubblicato sicuramente non è applicabile. Bisogna anche dire che questo episodio di cui parliamo è molto particolare, perché tra l'altro non riguarda il fatto di un giornalista, ma riguarda il fatto di un lettore che, intervenendo nello spazio riservato ai lettori di questo quotidiano online, che è Merate Online, ha fatto apprezzamenti molto pesanti sull'ex ministro Castelli e su un altro politico locale. Potremmo dire, dopo questa sentenza della Cassazione, che il direttore, comunque la persona responsabile di un sito internet, che sia un blog o che sia un giornale, fatto in un certo modo, strutturato e organizzato, è meno responsabile quindi rispetto a un direttore tradizionale? Sì, è meno responsabile per quello che attiene alla sua, al suo dovere di vigilanza, però la Cassazione ribadisce che il direttore può commettere reati di diffamazione mezzo stampa, sia quando scrive a titolo proprio, sia se, applicando le norme attuali vigenti a internet, sia se ne è consapevole. Se il direttore è consapevole che sta consumando un fatto di diffamazione, per esempio argomentando sulla lettera offensiva scritta da un lettore senza censurarla, senza levarla, chiaro, questo potrebbe portare anche a ipotesi di concorso. Però sicuramente, perché questo poi è anche un dibattito molto più ampio, si può dire che se non direttamente la Cassazione prende atto del fatto che su internet tutto è in divenire, le cose cambiano molto velocemente e soprattutto la partecipazione dei lettori è molto più attiva e quindi è impossibile controllare tutto. Sì, questa è la parte interessante della sentenza, e dice: ma cosa si potrebbe fare visto che il diritto esistente non è sufficiente per perseguire questo tipo di fatti? Si potrebbe porre un dovere di controllo assoluto al direttore del sito online? No, non è possibile, per proprio il tipo di interattività delle piattaforme internet. Cioè, a differenza di un giornale che viene pensato, chiuso, stampato, se sia quotidiano o periodico, internet è in continuo divenire e la Cassazione ipotizza che non è possibile pensare di porre un onere così gravoso sulle spalle di una persona, un direttore, quale controllare tutto il materiale che viene continuamente postato su internet e anche manipolato, perché c'è pure questo aspetto nel processo di cui parliamo, che, sul quale forse merita anche una riflessione brevissima. Il querelante aveva, cioè il ministro Castelli, aveva portato un file a processo come nella prova, querela, come prova, dicendo che era stato pubblicato. La Cassazione dice: i file sono facilmente manipolabili, possono essere tagliati, copiati, incollati. Per dimostrare che c'è stata una diffamazione bisogna fare una serie di procedure che tassative, cioè chiedere il sequestro di un sito nel momento in cui le cose sono pubblicate o, se nel frattempo sono state cancellate, sequestrarlo e fare una perizia per vedere se effettivamente il materiale che viene portato nella querela è stato effettivamente pubblicato oppure manipolato. Beh, naturalmente questo dà spunto, immagino, e questa è un po' l'ultima riflessione, l'ultima domanda, anche a future e forse auspicabili norme. Cioè, di fatto la Cassazione dice anche: qua manca un pezzo di legge, oppure no? Dice che manca un pezzo di legge, ma dice che forse è sufficiente quell'unica norma generale che è in vigore in tutta Europa, che è la direttiva europea sull'e-commerce, che in Italia è recepita dal decreto legislativo 70 del 2003, in cui si viene codificato il principio di neutralità, cioè il server provider non è responsabile di ciò che avviene sulla rete che transita attraverso il suo canale, a meno che se ne dimostri la sua consapevolezza. Sì. Nel momento in cui ne è consapevole, è tenuto a rimuovere i contenuti offensivi, contenuti diffamatori o contenuti truffaldini. Fino a quel momento non è responsabile. Probabilmente questo è il principio corretto, ipotizza la Cassazione, da applicare anche alle pubblicazioni online, ai blogger e ai forum. Il gestore non è ragionevole chiedergli di tenere controllato tutto quello che viene postato. Nel momento in cui ne ha la consapevolezza, che sia all'inizio o che sia durante o che sia dopo una segnalazione, scatta il suo dovere di vigilanza. Bene, naturalmente maggiori dettagli sono pubblicati sul Sole 24 Ore oppure sul sole24ore.com. Grazie ad Alessandro Galimberti, a presto, buon lavoro. Grazie, arrivederci a voi. E così concludiamo questa puntata di 2024, grazie a Valeria Bernardi per la parte tecnica. Vi ricordo che questa puntata sarà disponibile a breve sul nostro sito internet attraverso il servizio podcast di Radio 24. In questo modo avete la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Grazie anche ad Anita Panizza in redazione. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24, tra le 16 e le 17. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.